e le parole anche di Giorgio Zeppieri, diciamo un principe del foro che aveva la difesa di uno dei violentatori, entrambi tra l'altro figure storiche dell'avvocatura italiana, perché erano stati ancora a confronto durante il processo del Circeo nello stesso tribunale 3 anni prima. Ho pensato che quelle parole potessero avere un valore oltre il documento e quindi abbiamo cercato di spogliarle dal bianco e nero, spogliarle dal contesto storico per restituirle alla presenza del teatro, cioè cercare di restituirle agli spettatori faccia a faccia e cercare di capire se effettivamente 40 anni sono passati o quelle parole hanno una loro attualità urgente che probabilmente necessita ancora di riflessioni, nonostante le conquiste, perché ho scoperto facendo questo spettacolo che nel 1996 solo la violenza carnale è diventata un delitto contro la persona, perché allora nel 78 e fino al 1996, ripeto, ancora era una violenza contro la morale, contro la morale pubblica, quindi quasi a non riconoscere una donna come una persona. E quindi nonostante che l'Italia dal 78 avesse fatto naturalmente dal punto di vista legale e legislativo dei passi in avanti, ecco, forse l'opinione pubblica, il modo di impostare ancora le difese dei tribunali è ancora un po' nella coscienza civile in qualche maniera, forse un po' scarsa di tanta opinione pubblica, appunto. Valeva la pena ancora rimetterlo in vita. E lo spettacolo ha avuto il suo debutto al Teatro Eliseo all'interno della prima rassegna di Eliseo Off, ed è stato un mese, nel marzo del 2018, e con bei riscontri, hai venuto anche tu Federico, quindi certo, era stato sì. È stato un bel debutto, eravamo cinque attori in scena. Poi lo spettacolo è stato ancora riallestito per il Festival Lievito a Latina in occasione dei 40 anni del processo e ha avuto un sold out con oltre 500 persone. E un'ultima replica che c'è stata al Festival Pazza Idea a Cagliari sabato 24 novembre per la giornata internazionale contro la violenza delle donne. Quindi comunque continua ad avere una sua vita. Continua ad avere una sua vita, esatto. Renato, rispetto all'audio del processo, che lavoro di drammaturgia è stato fatto? Abbiamo lavorato sulle parole nude, diciamo così, del documentario, partendo dal documentario, quindi considerando il documentario come un documento, appunto, come un atto processuale, ma con dei tagli, diciamo così, che ne consentissero una narrazione drammaturgica. Allo stesso tempo c'è una stilizzazione anche dal punto di vista sonoro, sentirete, perché per esempio le voci degli imputati, che sono 4 imputati, sono interpretate dallo stesso attore, che naturalmente cerca di universalizzare quella figura, insomma, quasi spersonalizzandola, diciamo, nonostante i nomi, così come da documento. Sì. Poi ci sono dei frammenti del documentario. E soprattutto ci sono le voci con le reinterpretazioni degli attori che interpretano gli avvocati, che sono Clara Galante, che interpreta Tina Lagostera Bassi, Enzo Provenzano, che interpreta Giorgio Zeppieri, e ancora Tullio Sorrentino, che interpreta il presidente della corte, il giudice Colaiuta, e poi Fiorella, interpretata da Simona Muzzi, e appunto i 4 violentatori, diciamo così, interpretati da Francesco Lande. Quindi ecco, il tentativo e anche forse l'impressione che si restituirà anche in radio è quello di restituire una testimonianza, però attraverso la reinvenzione, diciamo così. Sì, sì. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per maggiori informazioni sullo spettacolo? C'è una pagina Facebook che si chiama Processo per Stupro, quindi lì è possibile mettersi in contatto con lo spettacolo per prossime repliche o per idee da condividere. Benissimo. Allora, un ringraziamento, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico e buon ascolto a tutti.

con Maria Inversi, regista dello spettacolo Faust di Fernando Pessoa, che sarà a Roma al Teatro Torlonia il 4 dicembre e al Teatro Torbella Monaca il 6. Maria, ben trovata. Grazie. Lo presenti? Sì. Chi? Lo spettacolo. Bellissima questa. Vedevo direttamente Faust. È stato un po' difficile. Allora, che cosa ti interessa sapere dello spettacolo? Beh, intanto per chi non lo conoscesse, di cosa si tratta? Allora, è un rapporto che questo personaggio Faust, che viene appunto, tu sai, dalla favola, dai vari allestimenti, ma tutti hanno, però hanno fatto sede al testo di Goethe, praticamente, sì. Dopo la favola al testo di Goethe. E invece questo Pessoa zompa Goethe, attinge diciamo alla spiritualità ma proprio lo ignora in un certo senso, quindi non c'è nulla della struttura del testo di Goethe, salvo appunto Faust, che lui ringrazia poi diciamo con una citazione, ringrazia mettendo in scena anche Goethe per poche battute, e in questo caso sarà addirittura un musicista a dirle. E quindi diciamo un'interrogazione sul valore dell'esistenza e di tante altre cose. Ora il testo è talmente ricco che si può prendere a caso qualsiasi, ma veramente qualsiasi battuta e riproporla, aprendo il testo in qualsiasi punto. Per esempio Faust dice a un certo punto: non provo nessuna meraviglia per quello che ho fatto, nonostante creda di voler provare dolore. Oppure cantiamo la vita, per esempio, oppure sfoglio così il testo a caso, sì. Non ho più l'anima, l'ho data alla luce e al rumore, oppure a poco lento e soave, oppure tessiamo la vita con amore, con il giorno e con la notte, eccetera eccetera. Quindi è un testo di una ricchezza direi eccessiva quasi, pieno di perché, di domande, ma insomma diciamo ogni personaggio che si incontra qui, da Lucifero, Cristo, eccetera, sono tutti personaggi che sono molto diversi, completamente diversi, da qualsiasi immagine, immaginazione, nostra mente, la nostra cultura, il nostro spirito ha, diciamo, in qualche modo sostenuto, perché l'ha cancellato, o perché l'ha tenuto, o perché l'ha avuto paura, o perché l'ha guardato, insomma, perché l'ha osservato, insomma, sono tutti diversi, ecco, è tutta un'altra storia. Okay. Questo Faust non c'entra niente con quelli precedenti. Come nasce il progetto dello spettacolo? Nasce tempo fa, lo lessi quando ero giovane, non sapevo, non mi ricordavo neanche che era così complesso. E poi l'anno scorso ho cominciato a pensarci, e poi piano piano. Però il testo è stato ridotto di 2 ore, praticamente. Il testo di Faust è lunghissimo, durerebbe 3 ore e mezzo, cioè il suo modo di porsi la domanda sull'esistenza e sul valore della bellezza che sta fuori di noi, o quella che sta dentro di noi, o ciò che non è bello, ciò che lo è, insomma è un'interrogazione, è una domanda che gira sul senso della vita, perché viviamo, okay. È come dire perché nasciamo, no? Perché nasciamo? Mm-mm. Perché viviamo? Perché moriamo? Sì. E questo è il centro questo è il cuore del testo proprio. Okay. E su cui permeano, cioè, diciamo, Taos si confronta con personaggi che, un Lucifero che di un'umanità incredibile, insomma, un Cristo che dice: ma io cosa ho combinato in questo mondo? Cioè, questo Cristo dice: ma guarda, lo dico in maniera banale perché è tutto poetico il suo, eccetera, ma dice: ma perché ho fatto quel che ho fatto? Ecco, per capirci, cioè è un Cristo che ci riguarda, no? Un Cristo che noi siamo abituati a vedere sulla croce, ma è anche un Cristo che ci dice: ma perché non sono riuscito a cambiarlo questo mondo? Quindi a renderlo veramente migliore come io volevo. Qualcosa non ha funzionato, ecco, diciamo è un po' così, ecco, è un po' così con le parti dedicate poi alla natura, alla bellezza, all'amore, alla passione, insomma è un testo molto ricco, ecco perché la musica, i musicisti poi sono chiamati a misurarsi con tante parti musicali, perché è un abbraccio alla differenza del mondo e alla differenza dei pensieri, però abbraccia veramente tutti, Tutti e tutti. Sì, quindi sì. Non ci lascia mai da soli, volendo, ecco, volendo ascoltarlo, ecco, non ci lascia mai da soli. Lo siamo, sì, tutti, ma insomma cerca di dare questa risposta alla solitudine universale e singolare. Sì. Come hai pensato la messa in scena? Beh, ovviamente trattandola come opera musicale, sono voci, appunto, siamo tutti quanti con microfonati e con i musicisti che giocano con noi, con le parole, con i sensi. Cioè non diciamo, come io dico sempre, non amo i melologhi, per cui ho cercato un'altra strada da tanto tempo, e questa strada è quella della relazione tra musica e parole, che non è soltanto di, insomma, non so, la musica che sostiene, la musica che ha, con un carattere molto preciso di relazione tra il momento in cui la parola dice una cosa e la possibilità che lo strumento ha di dire la sua cosa. Ci dico cose per dire, non so, valenze, per dire note, per dire eccetera, in questo senso. E sono musicisti molto bravi tutti. Sì, sì. Maria, oltre a queste due date romane, continuerà il suo viaggio, lo spettacolo? Ah, io sarò il diavolo a quattro. Come tu sai, le leggi ci stanno cancellando, non ci vogliono. Cioè, praticamente le leggi di Renzi e Franceschini sulla cultura hanno significato che possono chiedere finanziamenti soltanto coloro che fanno 1000 Bordereau in 3 anni. Mm. Vuol dire uno spettacolo al giorno. Sì. Gli altri sono fuori. E sono fuori tante cose, voglio dire. Certo. Anche noi. E allora ricordiamo questo doppio appuntamento romano con Faust di Fernando Pessoa al Teatro Torlonia il 4 dicembre e al Teatro Torbella Monaca il 6. Un ringraziamento e un saluto alla regista Maria Inversi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e grazie, a presto. Grazie da parte di tutti noi, grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie ancora, arrivederci. Con Licia Lanera, curatrice dell'adattamento e della regia dello spettacolo Guarda come nevica, 1 Cuore di cane a Roma all'Angelo Mai il 3 e 4 dicembre. Licia, ben trovata. Ciao, buonasera. Ci presenti questo lavoro? Allora, sì. Dunque, questo spettacolo è il primo di una trilogia. So che è una parola abbastanza abusata in questo periodo storico. Però in realtà non posso prescindere da questa cosa, perché veramente io, nel momento in cui ho deciso di fare questo, ho deciso di fare anche gli altri due. Non perché questo non possa camminare da solo, sono 3 spettacoli, diciamo, che possono andare da soli, ma che in realtà fanno parte di, appunto, di questo grande progetto che si chiama Guarda come nevica, 3 spettacoli sulla neve su 3 autori russi e 3 generi letterari. Quindi quest'anno, appunto, Cuore di cane di Bulgakov, l'anno prossimo Il gabbiano di Chekhov, il terzo anno, il 2020, un lavoro sulle poesie di Majakovskij. Questo è un romanzo che, diciamo, mi è stato regalato qualche anno fa, perché aveva a che fare con il corpo, e io che lavoro molto sul corpo a teatro, e il mio, qualcuno lo chiama corpo politico, insomma lo utilizzo molto. Allora un mio amico me lo regalò, disse, insieme ai viaggi di Gulliver, e disse: questo parla del corpo. In realtà parlava di molte altre cose, e io l'ho amato come, diciamo, amo un po' Bulgakov moltissimo. Credo che Maestro Margherita sia uno dei testi più belli del mondo. E un anno fa Laura Palmieri e Antonio Audino per Radio 3 mi hanno chiesto di fare una cosa per Tutto esaurito sul tema della Russia, e appunto nell'anniversario della rivoluzione, e io ho ricordato questo romanzo breve, quindi era più facile, insomma ridurlo per fare arrivare, insomma, un tempo che non fosse, diciamo, mortale per gli spettatori, e ho iniziato a lavorare così, ma proprio per l'occasione, per gioco. Dopodiché è rimasto un attimo in stand by e l'ho ripreso proprio quando mi è venuta quest'idea. È un romanzo politico, molto divertente, profondamente politico, che parla dell'oggi in una maniera pazzesca. Il professor Preobrazhensky sta creando il laboratorio, un uomo, cioè lui in realtà fa degli esperimenti e vengono, appunto, innestati in un cane ipofisi e i testicoli umani. Lui prova degli esperimenti di ringiovanimento, in realtà si crea un uomo, questo cane si trasforma in un uomo. ed era una metafora, un po' una presa per il culo alla NEP, che cercava di creare l'uomo nuovo, il nuovo comunista, e insieme, insomma, uomo nuovo fa pari col governo del cambiamento. Quindi, insomma, in qualche modo mi sembrava che in questa ossessiva ricerca di una novità, di qualcosa di rottamare e creare una novità, in realtà con l'oggi, fino a venire fuori un uomo che però ha la maleducazione un po' del cane, vizi un po' del cane, dell'animale, ma anche dell'uomo a cui era stata presa l'ipofisi. Quindi esce un mostro che parla di comunismo, di proletariato, di rivoluzione, ma non sa niente di niente, combina guai, diciamo, rende la vita del professore impossibile, e quindi è un po' uno spettacolo sulla fine dell'ideologia, e mi sembrava molto interessante, diciamo, sembrava che parlasse dell'oggi, ecco. Rispetto, ecco, alla messa in scena, rispetto al romanzo, stavo pensando a un bel esempio nel 1976 di Alberto Lattuada, sì, con Cogi, sì, Ponzoni nel cast. Ecco, è stato anche un riferimento quello dal punto di vista visivo? No, perché lì ovviamente io ho sradicato, ovviamente io sono sola in scena, quindi questo... per dire, definisce e modifica un po' tutto quello che è la messa in scena. Essendoci personaggi, io sono impossibilitata a riprodurre, diciamo, una comunità che, per esempio, nello sceneggiato c'è, con la vestizione, insomma, questi vestiti da russi, insomma, ci sono i vari personaggi, insomma, tra l'altro è molto molto affascinante, molto bello anche questa granatura un po' visiva d'antan, è bellissima. È molto divertente, però nonostante io l'abbia visto, e forse magari qualcosa nella maleducazione che porta con i Ponzoni l'ho assorbita in qualche modo, nella messa in scena io non ho fatto un adattamento drammaturgico per il teatro. Okay. Io ho lasciato la formula al romanzo, fa parte anche del gioco della trilogia, perché io faccio un anno il romanzo, il secondo anno un testo teatrale, una drammaturgia, e il terzo anno un genere poetico, e per cui io sono narratore e al contempo poi, quando la storia prende vita, faccio anche le voci degli altri personaggi, per cui è svolto in un micro salotto che però diciamo nega la sua, è totalmente antinaturalistico, perché come dire, c'è anche nel salotto un tavolo dove c'è il musicista, perché questo spettacolo, siamo io un musicista di musica elettronica con le sue macchine strane, che c'ha tutti i sintetizzatori, per cui c'è la bajur antica, mia nonna che ho recuperato dagli scantinati, la poltrona antica, la pedana, il parquet per terra, però ci sono tutte le macchine, il computer, tutte queste cose qua, e io recito anche col microfono, quindi c'è come un'ambientazione che richiama anche i vestiti, quella rustica antica, però poi ci sono degli elementi totalmente che snaturano, come dire, la replica esatta di quel mondo lì, ecco, la discrepanza rispetto all'oggi, cioè anche visivamente. Questo legame, questo filo conduttore tra tre autori così diversi? Ma questi tre autori sono diversi, ma diciamo hanno vissuto più o meno orientativamente in un periodo, insomma sono abbastanza vicini, sono legati da degli eventi o storici o proprio biografici che li accomunano, la famosa telefonata di Stalin a Bulgakov, l'unica che lui aspettava da una vita, poi ne aspettate per il resto della vita le altre, gliel'ha fatta proprio il giorno dopo della morte di Majakovskij, per dirgli guarda rimani, ti do il posto al teatro, perché insomma temeva pericolo, insomma, che fosse infangato il suo nome, dato quello che era diverso, sembra che la politica non lo attraversi, in realtà lui furbamente mette in dove, quindi sentiamo, però vediamo l'eco della una questione politica, diciamo di quel periodo, quindi in realtà ci sono tante cose fuori, oltre a elementi più grandi, sia cieco, bianco, erano e la loro chirurgia scrivere si moltissimo, il loro essere così maniacali, così chirurgici, così descrittivi del corpo e dell'animo umano, e di uno stesso, è un mostro a tre teste, come si chiama quello, cioè nell'inferno una delle fiere credo, a pretesto, oppure non so, insomma è come se fosse una stessa, un unico corpo con tre teste diverse che hanno molte cose in comune, e comunque tutti e tre hanno un cuore molto molto ghiacciato, una parola che arde, anche se in tre modi completamente diversi. E allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo della serie, della trilogia Guarda come nevica. Il primo appuntamento è Cuore di cane di Mikhail Bulgakov a Roma all'Angelo Mai il 3-4 dicembre. Un saluto e un ringraziamento all'adattatrice, regista e attrice Licia Lanera. Licia, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. Creti, grazie. Ciao. Ciao. Arriviamo alla settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci racconterà tutto. Ciao Simone. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qui, pronti a sentirti. Allora, dunque, è questa una settimana di quelle classiche dell'ultimo periodo, non c'è troppo da vedere a teatro, però insomma comunque riusciamo ad andare a pescare delle cose nel panorama cittadino. Dico questo perché... non che non ci sia proprio niente o che rimangano qualcosa dalla settimana precedente, ma semplicemente ci si aspetta poi da una città come Roma che sappia produrre di meglio e un po' più di cose durante una settimana, una normale settimana a teatro, e questo purtroppo devo ammettere che non sta accadendo. Quando passa la prima parte di stagione, cioè Roma Europa Festival, poi il resto pian piano va un po' scemando, e questo mi dispiace, perché insomma, una città come Roma così importante, una città internazionale, avrebbe bisogno di ben altro comparto culturale durante una settimana di vita sociale. Quindi andremo a vedere quel po' che resta, e che comunque sono ottimi lavori che andremo a vedere durante questa settimana. Dunque, io direi che possiamo cominciare con Maria Inversi, Relativa Maria Inversi nel Faust di Fernando Pessoa, che sarà al Teatro Torbella Monaca stasera al Teatro Torlonia, sì, esatto. Al Teatro Torbella Monaca. Un'opera incompiuta dello scrittore portoghese Pessoa, Faust, chiaramente ispirata alla vicenda già raccontata dallo scrittore romantico tedesco Goethe, che sarà in questa versione in questi due teatri a Roma, con della musica in scena, con musica e canto in scena, uno spettacolo musicale, e un attore, appunto Faust, sarà Luca Carbone, e delle voci appunto Sofra Maria Inversi alla regia, passiamo anche oltre, insomma, di questo avremo di che dire, per portarti a Bolero Europa, 7-9 dicembre al Teatro Furio Camillo, Gianluca Riggi, Valerio Gatto Bonanni e Riccardo Cananiello presentano questo lavoro, questo studio sul Bolero di Ravel. Bolero è una danza popolare di origine spagnola che nasce verso la fine del 1700, era un ritmo ossessivo, scandito da tamburi, da percussioni, e è diventata un po', insomma, la musica popolare della penisola iberica, soprattutto della Spagna. E Ravel, il suo Bolero, lo realizza nel 1928 ed è una ripetizione di 19 volte della stessa struttura di suono, musica e ritmo, che avvolge un po' lo spettatore a teatro, l'ascoltatore di musica. E quindi è sulla base del Bolero di Ravel che si va a costruire questo lavoro, che vedremo al Teatro Furio Camillo dal 7 al 9 di dicembre. Mentre invece al Teatro Flaiano, 6-16 dicembre, andremo a vedere Il discorso del capitano, Roma-Genova 3-2, la regia di Claudio Boccaccini. Ovviamente, ovviamente lo spettacolo appartiene al progetto, alla serie 10 partite, scritta da Giuseppe Manfredi, ed è forse la più moderna delle 10 partite di Giuseppe Manfredi, perché 10 partite sono legate alla storia calcistica capitolina, per ciò che riguarda la squadra che poi il nome della città, cioè la S Roma, e cioè questa partita che ha concluso la carriera del capitano della Roma, Francesco Totti, insomma, mito in vita che è stato, come è stato reso questo calciatore negli ultimi anni, che ha concluso la sua carriera alla fine del campionato 2016-17 con questa partita, e quindi anche un grande discorso alla fine all'interno dello Stadio Olimpico, alla fine della partita. Andremo a vedere quindi come l'ha ridotto Giuseppe Manfredi in scena dal 6 al 16 di dicembre al Teatro Flaiano. Poi, mentre resta in scena Filippo Tini all'Ambra Juvinelli, nel giorno di pausa, ovvero sia il prossimo lunedì, il 10 dicembre, un evento speciale, elegantissimo, un recital scritto e interpretato da Drusilla Foyer, carismatica icona di stile che racconta aneddoti tratti da questa sua straordinaria vita tra Italia, Cuba, l'America, l'Europa, a contatto con grandi amicizie con personaggi noti a metà, insomma, fra il reale e il verosimile. Quindi il 10 dicembre, questa è una serata un po' particolare, al Teatro Ambra Juvinelli. Poi, posto che parlerai tu di Liciana Nera all'Angelo Mai, per questo suo lavoro dedicato a Cuore di Cane, il capolavoro di Bulgakov, scrittore russo Bulgakov, ti dico, Federico, che in questa settimana andremo anche al Teatro Palladium, perché fino al 9 di dicembre ci saranno degli appuntamenti molto interessanti che riguardano il teatro. Cominceremo domani con 5 dicembre Le Viaggiatrici con le ali di e con Isabella Rossinova, che è un omaggio a un'eroina della rivoluzione francese che fu molto critica con la politica di Robespierre. Poi arriverà anche la rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea, in altre parole, con la presentazione giovedì 6 di un testo di José Ramón Fernández, J'attendrai, sì, che è un mezzo francese, un mezzo catalano, insomma, un po' da capire la lingua, effettivamente, appunto lo spettacolo che si rifà a episodi non tanto noti della guerra civile spagnola, e sarà presentato appunto giovedì 6 dicembre. Nell'ambito della stessa rassegna, l'autrice de Las Meninas di O dov'è il quadro di Ernesto Caballero, in scena venerdì 7 dicembre alle ore 20 al Teatro Palladium. Questo per ciò che riguarda appunto il Palladium. Andiamo anche questa settimana al Monk, sabato 8 dicembre, per vedere alle ore 21 il Ugo volume 8, questa sorta di Dramedy Club, uno spettacolo contenitore che è tutto declinato al femminile, con un cast, insomma, abbastanza sempre variabile, insomma. Un po' ti ricordi, no? Dignità Autonoma di Prostituzione, ecco, un po' su quella linea. Sì, sì, loro le sento per ogni puntata di Ugo, per ogni volume di Ugo sento uno di loro, per cui sono anche ben presenti. Li conosciamo direttamente. Per ciò che riguarda ancora invece poi il teatro da palco, visto che questa è una cosa al Monco un po' fuori dai canoni tradizionali, tanto resta il dittico di Eleonora Danco a Nessuno ci guarda, donna numero 4, dal 4 al 9 dicembre, che ce l'abbiamo in archivio, direi, se non sbaglio Federico, sarà al Teatro India. E ti ricordo l'ultima cosa che vorrei dire per questa, anzi perdonami, la penultima. Una è al Teatro Piccolo Eliseo, dove Licia Maglietta dirige e interpreta questo testo di Clotilde Marghieri, Amati Enigmi, dal 6 dicembre fino al 30, sarà in scena questa vita dentro il pensiero che brilla per quella fiamma antica, la vecchiaia. Non esiste, non è mai esistita, questo ci dice Clotilde Marghieri per voce di Licia Maglietta, ma io ti porto in conclusione al Teatro Brancaccino per andare a vedere dal 6 dicembre fino al 9 dicembre questo lavoro di Irene Allison con Valentina Hackel, regia di Marcello Cotugno, Leni, il trionfo della bellezza, e Cora Teatro che presenta questo lavoro. Valentina Hackel è una straordinaria attrice italiana, attrice di Antonio Rotella, attrice di molti spettacoli che hanno vinto molti premi quest'anno, e chiaramente dal nome un po' ci riporta la storia al personaggio piuttosto controverso della storia del Novecento europeo, ovvero sia Leni Riefenstahl, musa, ballerina, attrice, regista, fotografa, innovatrice del linguaggio cinematografico. Ecco, noi ce la ricordiamo un po' per questo, in realtà ispiratrice per una generazione di cineasti, lei che realizzava poi i video propaganda per il Terzo Reich, e soprattutto colei che fece il resoconto delle Olimpiadi di Berlino del 1936, dove insomma lo sport entrò di diritto all'interno del racconto della tragica storia contemporanea del Novecento. Quindi questo per ciò che riguarda il lavoro dedicato a Leni Riefenstahl, Il trionfo della bellezza, 6-9 dicembre al Teatro Brancaccino. Un abbraccio Simone, alla settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.